Io e Matteo di Ernesto Granese. Episodio numero 55. Il selciato. Letto da Marco Torricelli. Quel giugno del 1976 segnò una seria rottura nei rapporti tra me e Matteo. Eravamo cresciuti insieme, stessa infanzia contadina, stessi anni di miseria, stessa rabbia proletaria. Ma paradossalmente, proprio l'ideologia che ci aveva uniti iniziava a dividerci. Io guardavo al PCI con speranza riformista. Lui vedeva nella lotta armata l'unica via. «Matteo, ma tu davvero pensi che con due Molotov si cambi il paese?» gli chiesi un pomeriggio, seduti sul muretto dietro la scuola. «Molotov, di che parli? Servono armi vere, pistole, mitragliette, bombe, altro che Molotov», mi rispose, con quello sguardo febbrile che non avevo mai visto nei nostri anni da ragazzi. Sul fronte sentimentale, dopo il disastro con Francesca, ero tornato con i piedi per terra. Avevo 18 anni, brufoli spariti, riccioli più disciplinati, eppure la mia autostima era fragile. Matteo, senza provarci, attirava ragazze come api al miele. Io invece mi innamoravo facilmente e prendevo porte in faccia. Intanto l'Italia ribolliva. La strage dell'Italicus, Piazza della Loggia, Bologna, i primi attentati e rapimenti delle BR. Matteo viveva in un'altra dimensione. Frequentava ambienti sempre più radicali e io cominciavo a temere il peggio. Quando ci incontravamo a scuola, Matteo mi abbracciava, chiedeva di me, di Enrica, la ragazza di cui ero cotto, ma non raccontava nulla di sé. Voci insistenti lo davano vicino a frange terroristiche. A casa mia l'aria era cambiata. I miei, ormai prossimi alla pensione, parlavano di tornare al sud. Mi proposero di seguirli a Battipaglia. «Lì non ho nessuno, mamma. Qui c'è la mia vita e c'è Enrica», risposi. «Enrica, chi è?» chiese mia madre. «È una di Busto, fa la cantante, è brava». Intanto circolavano voci secondo le quali il comune si apprestava a demolire le nostre case per far posto ad una superstrada verso Malpensa. Il destino sembrava già scritto. Sarei rimasto solo, in un grande appartamento popolare con tre stanze e nessuno a occuparle. Il selciato. Nel febbraio del 1976, un incidente stradale mi lasciò zoppicante per mesi e i miei progetti di continuare gli studi all'università svanirono. Poi arrivò la notizia. Matteo lavorava in una cooperativa culturale, Il Selciato, in un quartiere malconcio di Busto. Il locale, con le pareti scrostate e l'odore di umidità, vendeva pochi libri. In compenso, stampava e diffondeva molte riviste di propaganda. I clienti erano un miscuglio di giovani barbuti, ragazze dai maglioni larghi e personaggi che parlavano a bassa voce di compagni prigionieri e azioni necessarie. Matteo cercò di coinvolgermi. «Vieni a dare una mano, almeno il sabato. Serve gente fidata». «Matteo, io non...» «Non ti chiedo di fare politica, solo di esserci». Fu proprio lì che conobbi Enrica, ex FIGC, cantante rock dalla voce molto promettente, occhi scuri e profondi, sorriso capace di squarciare la nebbia di Busto. Lei era l'unica luce in quel luogo cupo. Ci innamorammo e formammo un gruppo. Ma la sua storia finì presto e male. Un'overdose la portò via. Quel giorno, davanti alla notizia, capii che una parte della mia giovinezza era morta con lei. La svolta. Tra il 1977 e il 1979, l'Italia sprofondò negli anni di piombo. Le BR passarono dalle gambizzazioni agli omicidi, che culminarono con il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro, e nel gennaio 1979 con quello del comunista sindacalista Guido Rossa. Lotta continua, il gruppo in cui militava Matteo liquidò l'assassinio con un «se l'è cercata». Matteo sparì. Mia zia mi disse che aveva telefonato, che stava bene e che forse sarebbe tornato per un compleanno di famiglia. Da allora, per molti anni, non lo rividi più. Il Selciato, assediato da debiti e perquisizioni, chiuse nel 1981. Per qualche mese divenne un mercatino dell'usato, poi scomparve. Anche i suoi frequentatori si dileguarono: carcere, droga o clandestinità. Il distacco. Anch'io cambiai. Lasciai il PC deluso e amareggiato. Il terrorismo aveva soffocato la partecipazione democratica, trasformando ragazzi intelligenti e idealisti in assassini. Capivo ora che non volevo finire come loro. Con la morte di Enrica si era chiusa anche la mia breve carriera musicale. Cominciai a pensare a viaggi, a partire. Prima però tornai a Battipaglia. Nel luglio 1984, la morte di mio zio Alfonso, uomo a cui sia io che Matteo eravamo legati, mi riportò al sud. Sperai di incontrare Matteo al funerale, ma fu solo un'illusione. Guardando i campi che scorrevano dietro il finestrino, pensai a quanto io e Matteo eravamo cambiati dal giorno che lasciammo Battipaglia. Io, smarrito, alla ricerca di una nuova vita. Lui, Matteo, chissà dov'era. Forse era stato arrestato, forse era fuggito all'estero.